Ciao ragazze! Ciao! Ciao! Dai, vabbè, iniziamo! No, non è... Said I've pondered long, listening to Mother Nature's song. And let me tell you, son, life ain't just for fun. But if you want to have a ball, here's how you get it done. You got to do. Eccomi tornata, buonasera, buonasera a tutto, tutti, tutte gli ascoltatori, ascoltatrici e ascoltatori di Radio Wombat. Quindi ben trovato a tutti qui sulla radio. Radio Wombat, la radio libera autogestita di Firenze. È molto importante questo, mi raccomando, a ricordarsi sempre. E allora oggi sono qui io, Addu, a accompagnarvi per un'oretta e mezzo. Ho iniziato un minutino, due minutini in anticipo, ma non importa, se vi siete appena collegati avete solo perso la sigla, non vi preoccupate. E dunque sarò qui anche oggi con Nervature, oggi siamo alla 17ª puntata di Nervature e sarà una puntata anche questa un po' come la scorsa, molto tranquilla, molto molto tranquilla. Anche oggi vi porto un po' di letture, poi con calma vi dico di cosa. E, dunque appunto oggi 14 agosto 19:01, 17ª puntata di Nervature della seconda stagione, cioè 17ª in generale, ma insomma. E quindi direi intanto di ricordarvi i contatti della radio, quindi Radio Wombat, ci potete trovare sul sito radiowombat.net. E, per ascoltare quindi lo streaming potete pigiare sul bottoncione giallo della diretta. Lì in quella pagina, una volta siete sulla pagina dello streaming, potete anche accedere al pad. Il pad è il solito foglio di testo con cui potete chattare con noi, quindi potete scrivere "Ehi, ciao Addo, come stai?" sul pad. Appena lo scrivete io lo vedo subito e così poi posso rispondervi a voce in diretta. Che ne dite? Che ne pensate? Bene, bene, bene. Altre info invece le trovate dalla pagina dei contatti del sito radiowombat.net, dove trovate per esempio la casella di posta che è postawombat@insiberia.net. Altrimenti vedete come trovarci, come contattarci tramite anche la messaggeria, e sono proprio messaggi vocali. E quindi queste info importanti le ho date. Altra info ovviamente fondamentale è che non trasmettiamo soltanto sull'internet, ma anche su frequenze radio, frequenze AM, in particolare sul 1359 nell'area fiorentina ovviamente. Quindi se volete provare voi radio amatori ascoltarci anche in questo modo, sentitevi liberu ovviamente. Dunque, allora oggi, come vi dicevo, vi farò un po' di letture e nel frattempo mi farò accompagnare da un po' di musichetta di sottofondo, molto carina, va bene, ma vi farò sentire anche un po' di brani di un gran bel gruppo e inizierei subito con questo gruppo. E trattasi di Riccardo Tesi e Banda Italiana. E Riccardo Tesi è un musicista molto famoso nel suo ambito, diciamo, è un musicista italiano che dagli inizi del 2000 suona anche con questa formazione, appunto, Banda Italiana, all'interno della quale c'è un altro musicista famoso, magari avete già sentito, che è Maurizio Geri, per esempio, che è anche quello che fa la voce, tra l'altro. E dunque, come mai vi porto un po' di queste musichine che ora andremo a sentire? Beh, proprio perché domani, attenzione, domani, mi sembra che sto facendo la puntata della scorsa settimana, invece no, vi giuro che è un'altra, domani suoneranno in concerto a Firenze, precisamente a San Salvi. Ora con calma poi vi do anche le info più precise. E la sera suoneranno a San Salvi, so che c'è da prenotarsi, quindi veloci, muovetevi. E suoneranno, quindi non so quanto durerà, ma insomma non ho idea di che repertorio porteranno, perché insieme hanno fatto tipo 6 album o qualcosa del genere, comunque tanti, quindi non so se faranno un misto, se porteranno l'ultimo, se porteranno qualche nuova uscita, non so se ce l'hanno, ma non importa. Noi quindi intanto ci ascoltiamo qualche brano loro. In particolare inizierei da questo brano qui, che è Corno d'Africa. E quindi buon ascolto, ci sentiamo fra 5 minuti e 41 precisamente. Lascio indietro per un attimo la velocità sulla sponda mancina della civiltà. Fiume scuro, bagnami prima di cadere. La custodia del tempo è quasi il tuo mestiere. Cadevo dritto dal Manhattan a qualche aperitivo. È il miraggio di un'oasi a mantenermi vivo. Da questa solitudine c'è chi non riesce, o chi ne salta fuori muto come un pesce. Corno d'Africa, legni che parlano. Corno d'Africa, remi che sbattono. Religione laica, la sopravvivenza. Chi ci trova un credo, chi ne fa una scienza. E rimango immobile, senza più sapere se è meglio ravvedersi o provvedere. Corno d'Africa, legni che parlano. Corno d'Africa, remi che sbattono. La pantera che mai sazia, la gazzella è sempre in fuga, e la morde mentre salta, sale di corsa, sale di corsa. La pantera che mai sazia, la gazzella cade giù, che la morde mentre scappa, sale di corsa, sale di corsa. Agli incontri al vertice con l'abbondanza, e per i commensali non è mai abbastanza. Si affollano e rimano come in una strofa i costumi e i delitti della vecchia Europa. Corno d'Africa, legni che parlano. Corno d'Africa, battono, intravedo il loro lontananza, passo fermo da zebra, fra i rami di gorezze una preghiera. Si dividono in triangoli d'oro e filigrana gli ultimi ritagli della savana. La pantera che mai sazia, la gazzella è sempre in fuga, che la morde mentre salta, sale di corsa, sale di corsa. La pantera che mai sazia, la gazzella cade giù, che la morde mentre salta, sale di corsa, sale di corsa. Ebbene, questa era Corno d'Africa di Riccardo Tesi e Banda Italiana. Alla voce c'era però Maurizio Geri, che comunque fa sempre parte di questa formazione. Allora, quindi ripeto, questo gruppo, questa formazione suonerà domani a Firenze, a San Salvi, quindi dove sapete benissimo voi ascoltatori di Radio Wombat che c'era il vecchio manicomio di Firenze. C'era, andate tranquilli, non troverete problemi, va bene. Allora, quindi un po' più di info al riguardo, cioè, praticamente mi sto sostituendo a Topo Gig, per chi non lo sapesse, tra qualche ascoltatore di Radio Wombat che magari si fosse perso questa trasmissione, Topo Gig parla e informa tutti noi dei prossimi eventi, concerti in Toscana, a Firenze, ma anche in altre regioni e talvolta addirittura anche in altri stati. Però sono un po' in pausa vacanziera, da quel che so, perciò bene, non mi sento di pestarli i piedi. Dunque, quindi dicevamo, questo concerto di Riccardo Tesi e Banda Italiana sarà domani a San Salvi alle 21:30. Non so quanto durerà, ma lo scopriremo. Purtroppo non è gratis questo, e costa 15 euro oppure ridotto COP ARCI, quindi per chi è socio COP o per chi è socio ARCI invece costa 12. E non sono finite qui le magagne perché c'è posti limitati, quindi bisogna prenotare prima. E le info per prenotare sono, ho una mail a info@chille.it oppure c'è un numero, vabbè, quello comunque se cercate da internet lo trovate subito, quindi concerto San Salvi domani lo trovate, no problem. Spero che vi sia piaciuta questa musichina, ne sentirete, ne sentiremo altre comunque durante questa oretta e mezzo. E a me piacciono molto, tra l'altro ho subito scelto di usarli per questa trasmissione perché sono uno di quei gruppi che sicuramente anche voi ascoltatori ce ne avrete qualcheduno, appunto uno di quei gruppi che sentivo fin da bambina perché i genitori o comunque l'ambiente in cui si è li fanno sentire e quindi insomma c'è un po' questo legame affettivo, diciamo, verso questa musica qua. Nonostante ciò, io non li ho ancora mai visti dal vivo, quindi penso che domani cercherò di andare. E se anche a voi piace come musica, perché no, voglio dire. Allora, io intanto vi riaggiorno per chi si fosse collegato da poco. Siamo e siete su Radio Wombat, l'unica radio libera di Firenze. potete vedere tutte le informazioni di Wombat, tra cui come ascoltarci, come contattarci, tutti i podcast delle vecchie puntate, di tutte le trasmissioni, dal sito della radio, che è radiowombat.net. molto facile. E vi ricordo di nuovo, perché ci tengo tanto, che potete chiacchierare qui con me oggi, in questo tempo che abbiamo insieme a disposizione, sul pad. E il pad è un foglio di testo tipo Word, voi lo aprite dal browser, è un link, potete scrivere in diretta, vedo subito quello che avete scritto, e lo trovate dal sito, dalla parte di contatti c'è anche scritto diretta pad. Oppure basta digitate diretta wombat.vado.li e lo trovate, facilissimo anche questo. Mi raccomando, fatemi sapere da dove state ascoltando, cosa fate, chi siete, non c'è bisogno, se lo volete lo potete scrivere, ma se no non c'è bisogno, io tanto vi voglio bene lo stesso, non ho bisogno di sapere chi siete. E quindi oggi, come vi ho detto, vi leggerò un po' di robine. E cosa sono queste robine? Praticamente c'è da raccontare una storiella. Allora, sono stata questo weekend su negli Appennini a trovare amici, e negli Appennini, come voi saprete già benissimo, c'è tutti i vari paeselli un po' spersi nelle montagne. Nel paesello in cui ero c'era questa festa di paese, per cui c'era anche il mercato la sera, che bello, un monte di gente, e c'era qualche banchino, interessanti pochissimi a mio avviso, comunque uno che mi interessava, che vendeva tutta roba di antiquariato. Mi sono messa a ciocciare e cosa ho trovato? Attenzione, ho trovato un bel libriccino che si chiama La rotazione agraria, pubblicato da Biblioteca Agricola, scritto da Mario Bovoli e G.B.Paravia and Co. Penso sia la casa editrice. Comunque, questo libricino carinissimo, piuttosto vecchiotto. Addirittura là dentro ci ho trovato delle cartoline, delle robe scritte. Quello che c'è scritto: aveva ricevuto una cartolina da Ravenna, la voleva mandare a Ravenna, non lo so. No, il nome non lo dico, non importa. E sappiate il nome di questo personaggio, non è necessario. È bellino, c'è tutti i suoi appunti dentro, anche c'è scritto bietole, grano, tutti dei numeri accanto. Probabilmente si stava, c'è scritto tipo bietole 20/100, non so se forse era quante ne sono cresciute alle semine o qualcosa del genere, o il raccolto forse, boh, chi lo sa. Comunque c'è tutti i suoi appunti, molto molto carino. Appunto, ho trovato questo libricino vecchio e vabbè, ho dovuto comprarlo, ovviamente non potevo non comprarlo. E tra l'altro non riesco a capire di che anni sia, miseriaccia. Ora ve lo dico. Quando lo trovo ve lo dico. Non riesco a trovare una data. No, l'ho trovata, però mi sa che è la data della casa editrice, forse. Vabbè, ora cercherò meglio comunque. E c'è tra l'altro un sacco di illustrazioni, cioè qualche illustrazione anche. Addirittura è un libro piccolo, ma addirittura nel mezzo, per dire, si può aprire tutto un fascicoletto di questa illustrazione lunghissima, e si deve svolgere 600 volte sta pagina per aprirla tutta, e che spiega appunto le rotazioni, come devono essere, quale cultura dopo quale. E quindi appunto ho iniziato a leggerlo, e non è solo carino, vintage e figo, ma è proprio interessante e fatto bene, cioè quello che scrive è molto molto molto fatto bene. Ok, quindi lo sentirete voi stesso ovviamente, e ora andremo a leggerlo. L'unica cosa, prima di tutto ciò, volevo invece informarvi su un altro appuntamento importante. Per chi non avesse ascoltato la scorsa puntata, o per chi l'avesse ascoltata ma non se lo ricorda, appunto alla scorsa, tra tutte le varie chiacchiere deliranti, vi ho all'inizio letto il volantino del comitato No Comando NATO, né a Firenze né altrove. che vabbè, semmai ve lo andate a risentire. E praticamente questo, il comitato organizzerà un'altra assemblea, ce n'era già stata una qualche settimana fa, e ne organizza un'altra lunedì 4 settembre alle ore 21 al Parco dell'Anconella. Quindi assemblea del comitato per organizzare le prossime iniziative di lotta. Quindi il comitato serve proprio a questo, serve a unirsi per organizzare, per prendere decisioni su cosa fare, ma anche per discutere insieme. Quindi se siete interessati andate appunto al Parco dell'Anconella alle 21, quindi alle 9 di sera, lunedì 4 settembre. Se poi ci sono aggiornamenti cercherò di farvelo sapere nelle prossime settimane. Allora, è vero che devo iniziare, diciamo, a leggervi questo libricino, però io direi che non c'è fretta, perciò vi manderei subito un altro brano e dopo di questo poi vi giuro che inizieremo a leggere questo libricino sulla rotazione agraria. Quindi vi mando un altro brano di sempre lì Riccardo Tesi e Banda Italiana, ripeto, che suoneranno domani sera alle 9:30 a San Salvi, prenotatevi se volete andare. E quindi questo brano che vi faccio sentire adesso è Ciao Ciaria. Buon ascolto. Thank you. Ciociaria di Riccardo Tesi e Banda Italiana, questo è il brano che avete appena sentito e se li volete sentire meglio saranno loro domani sera a San Salvi, Firenze, 9:30 di sera. Dunque, rieccomi qua, Addu qui con voi su Radio Wombat. Forse ci state ascoltando dallo streaming, dal sito radiowombat.net, altrimenti forse dalle frequenze 1359 della modulazione di ampiezza. Chissà, chissà. Fatemelo sapere però sul pad, quindi lo potete trovare su direttawombat.vado.li, è un link, lo digitate, lo trovate. E dunque, vi stavo dicendo che vi andrò a leggere questo bel libriccino chiamato La rotazione agraria. Allora, ho trovato informazioni un po' più migliori di quelle che vi davo prima. Quindi, il libro è La rotazione agraria, nozioni di scienza semplificata e di pratica perfezionata per gli agricoltori. È un libro scritto da Mario Bovolo e pubblicato nel 1926, quindi è vecchiotto, cavolo. Però vi giuro, cioè sembra attualissimo. Chiaramente si riferisce a tutto un tipo di agricoltura, diciamo, vecchia maniera, o comunque tradizionale, diciamo, chiamiamola così. Quindi la terra si deve muovere con l'aratro, quindi va ribaltata, quindi è tutto improntato chiaramente su produttività massima, perché comunque si stava ancora lavorando per aumentare queste produttività. Non che adesso non si stia facendo, ma insomma si spera ci siano anche delle tendenze un po' inverse rispetto a queste. Allora, io mi sto sistemando un po' di tappetino musicale di sottofondo, in particolare oggi vi propongo musiche degli Go Go Penguin, un gruppo inglese britannico. E andrei quindi a iniziare questa nostra lettura di questo libriccino La rotazione agraria di Mario Bovolo del 1926. Nessuna definizione, un saluto per conoscerci e intenderci e due chiacchiere sulla pratica dei campi e sulla scienza agraria. Per dire con poche parole che cosa sia la rotazione agraria, si dovrebbe ricorrere a una di quelle belle frasi con parole difficili che si chiamano definizioni. Io le odio le definizioni, mamma mia, sono una cosa tremenda. Sempre definizioni, qualsiasi cosa. No, no, invece questo libro si parte benissimo. Quindi andiamo avanti. Ma si può benissimo incominciare a trattare l'argomento così, alla buona, ci piace sempre di più, quasi che l'autore di questo libro potesse sostituire le parole stampate con la sua voce, rivolta a ciascun agricoltore che ha incominciato a leggere. Una chiacchierata, insomma, senza la pretesa di esporre grandi cose, ma con il semplice scopo di racchiudere in queste pagine per voi i principi della pratica che la pratica ha stabilito in secoli di esperienza e le nozioni che la scienza ha dettato in poche decine d'anni di studio. Ho detto scienza e non teoria. La teoria, sono parole di taluni contadini, è tutto quello che sta scritto sui libri di agricoltura. Ma potete essere sicuri che costoro non hanno mai pensato a leggere e a istruirsi. La scienza agraria, diciamo noi, non è la teoria. È teoria e pratica insieme. I principi scientifici sono applicati in pratica, in tante prove, per molti anni, con diverse osservazioni. E dai risultati di una lunga esperienza si è potuto dimostrare e si può fissare qualcosa di utile e di sicuro per l'agricoltura. per l'appunto è finito il primo pezzo alla fine del primo capitolo. Miseriaccia, come si fa? Eccolo lì, eccolo lì. Sto tappetino è troppo bellino, cioè non riesco, faccio fatica a interromperlo per parlare. No? Che ne pensate? Sì, diciamo che non è proprio un tappetino super rilassante, però ci foga, no? Dai, dai, dai, ci foga. Ripeto, questo tappetino sono i Go Go Penguin. Vabbè, vabbè, vabbè, dai, torniamo a noi. Allora, si diceva, no? Si stava leggendo il libricino La rotazione agraria. Quindi, il libro d'agricoltura diventa libro di storia. Che cosa osservarono e compresero gli antichissimi coltivatori? Fin da quando i primi agricoltori, migliaia e migliaia di anni fa, incominciarono a lavorare la terra, si accorsero che una coltura erbacea, dopo essere ritornata tante volte di seguito sul medesimo campo, non dava più le produzioni abbondanti che si ottenevano in principio, ma i raccolti andavano mano a mano diminuendo. Quegli uomini primitivi credo che non abbiano fatto dei grandi ragionamenti su questo fenomeno e certamente non hanno scritto dei libri in proposito. La fertilità accumulata nei boschi, distrutti prima dal fuoco per poter coltivare, era stata sfruttata? La terra si era stancata di sostenere e alimentare sempre quella coltura, orzo supponiamo, che serviva di nutrimento all'uomo? Siccome in quei tempi non si parlava ancora del diritto di proprietà e non si litigava per linee di confine, i nostri lontanissimi antenati facevano una cosa semplicissima. Abbandonavano il campo, che ormai dava cattivi risultati, e si spostavano in altra terra. E dopo aver gironzolato in altre zone, ritornavano al campo da diversi anni abbandonato. Quegli agricoltori si devono essere accorti di un fatto, che la terra, lasciata in abbandono, si era riposata, perché era capace di fornire nuovamente abbondanti prodotti. Si capisce che le colture che si praticavano allora erano poche. Probabilmente ogni tribù coltivava una sola pianta. In seguito, nei secoli successivi, gli antichi abitatori devono aver constatato un altro fenomeno più importante ancora del precedente. La terra, stancata di una coltura, si riposa con un'altra coltura. Mentre l'orzo, per esempio, coltivato per diversi anni, incominciava a dare prodotti scarsi, la lenticchia, sul medesimo campo, offriva prodotti abbondantissimi. Non solo, ma dopo la lenticchia l'orzo trovava nuovamente buone condizioni per il suo sviluppo. Queste le osservazioni alle quali fanno certo, a, alle quali fanno cenno, scusatemi, gli antichi scrittori. Ma noi non limitiamoci ad osservare, a constatare. Cerchiamo di spiegare e impariamo ad applicare. Go-Go Penguin, eh? Che ne dite? Belli, a me piacciono. Un vecchio medicaio che scompare nella lotta delle graminacee contro le leguminose. Il vinto ritornerà vincitore. Allora, medicaio, ho scoperto essere il campo di erba medica, per chi non lo sapesse, tipo me, ok? Anche naturalmente si verifica quanto abbiamo esposto. Nessuno di noi si sarà mai occupato di seguire i cambiamenti nella flora di un prato o di un pascolo, ossia nelle erbe che si sviluppano spontaneamente in un terreno abbandonato. L'esame è abbastanza difficile, ma tutti si è avuto campo di osservare quanto avviene in un medicaio che incomincia ad invecchiare. Tutti, cioè, è ovvio, cioè, chi non ha osservato questa cosa vuole sapere, no? Mi pare scontato. Dunque, poco per volta le piante di medica vanno scomparendo, lasciando dei vuoti sul terreno. E questi spazi sono invasi da altre erbe, che crescono rigogliosamente e che sembra quasi vogliano soffocare le pianticelle vecchie e deperite della regina delle foraggere. L'erba medica e gli altri trifogli, le fave e i fagioli, i piselli e le lenticchie danno un frutto che è un baccello che dice sì legume e formano la grande famiglia di piante chiamate leguminose. Ho detto questo per far osservare che nel vecchio medicaio le erbe che vanno sviluppandosi non sono leguminose, ma appartengono ad altre famiglie. Troveremo molte pianticelle con le foglie allungate, con piccoli fusticini nodosi rassomiglianti al grano, con il quale formano la famiglia delle graminacee. L'osservazione generalmente si limita a questo punto. Anzi, in pratica sarebbe bene non arrivarci neppure, rompendo il vecchio medicaio con un buon aratro appena incomincia ad invecchiare, come vi dicevo appunto questo libro, essendo del 1926, chiaramente prende in considerazione un tipo di agricoltura tradizionale, quindi dagli con l'aratro alla fine della coltivazione, no? Se continuiamo ancora ad occuparci delle pianticelle che vegetano successivamente sul vecchio prato artificiale, vedremo che col passare degli anni l'erba medica scompare, ma in seguito anche le graminacee, prima predominanti, verranno anch'esse sostituite da piante diverse di altre famiglie. Ma ritornano in seguito condizioni adatte per le singole piante, ossia il terreno, stancatosi di una famiglia, accoglie favorevolmente e successivamente altre famiglie, riposandosi in tal modo per albergare nuovamente la prima famiglia e poi le altre per le quali si era stancato. Il terreno stanco si vuol riposare, in teoria con una scala, ma in pratica con una ruota. Dunque, la pratica insegna, e già l'avevano imparato gli agricoltori primitivi, che coltivando per diversi anni di seguito la stessa pianta sul medesimo terreno, questo si stanca, ossia la produzione va diminuendo. E il terreno si riposa in due modi, abbandonandolo a sé, in queste condizioni non dà raccolto, oppure coltivando un'altra pianta, meglio se di famiglia differente, e allora continua a produrre, e bene anche. In base a quanto diremo in seguito, ci convinceremo che l'ideale sarebbe di cambiare sempre successivamente le piante che si coltivano sul medesimo campo, ossia avvicendarle. Possiamo paragonare l'avvicendamento delle colture ad una scala. C'è anche la figurina di una scala, nel caso qualcuno non sapesse come è fatta una scala. Molto bene. Della quale ciascun piuolo, non so se è un errore di battitura o se si diceva davvero piuolo, almeno io dico piolo, poi non so, forse so io che sbaglio, ma insomma. Quindi, della quale scala ciascun piuolo rappresenta una data pianta differente dalle altre. Salendo, ogni piede viene appoggiare mano a mano sopra un diverso piuolo. Ossia, ogni anno... No, ok, mi sa che non è un errore perché l'ha scritto due volte, è scritto piuolo. Va bene, piuolo è difficilissimo da pronunciare poi. Bene, bene. Ossia, ogni anno il terreno sarebbe destinato a una diversa coltivazione. La scala dobbiamo immaginarla lunghissima, quasi interminabile. Ma in pratica questo non è possibile perché, ripeto, ciascun piuolo sta a raffigurare una coltura. E gli agricoltori mi insegnano che le piante che si possono coltivare in una regione, che si adattano in una determinata zona, che convengono in una data località, sono diverse, ma pur sempre poche. Allora, non parliamo di avvicendamento delle colture e lasciamo in disparte la scala. Immaginiamo invece una ruota che ha diversi raggi e ciascuno di questi raggi ci rappresenti una coltura. Ovviamente c'è la figura della ruota, quindi ricordiamoci come è fatta una ruota. Nella figura sembra non una ruota di macchina, ma più una ruota di carro, se ve la volete figurare. La ruota gira, i raggi si spostano, ossia le piante si succedono sul medesimo terreno. Ma intanto il raggio che prima si trovava in alto, fatto il giro completo, ritornerà al punto di prima. Ciò che significa che sul campo si coltiverà di nuovo quella pianta che corrisponde a quel raggio. E così di seguito. Ecco che la ruota ci dice praticamente che cosa è la rotazione agraria. Questa quindi era un inizio di lettura di questo libricino che a me sta piacendo molto, spero anche a voi ascoltatori, che è La rotazione agraria di Marco Bovolo del 1926. Io farei però una pausettina musicale, anche se vabbè la musica sotto c'è sempre, ma qui ci concentriamo tutti un po' meglio e scherzo, voi rilassatevi se volete. E quindi vi mando un altro brano della formazione Riccardo Tesi e Banda Italiana. Questo in particolare è Turchese. Buon ascolto. Thank you. Immaginate di essere voi contadini dentro il vostro campo, che state lì al tramonto a osservare i vostri ettari di terreno, la vostra terra nuda, piuttosto che il vostro campo invece con tutte le piante belle verdi in vegetazione, o piuttosto quell'altro campo con tutte le altre piante belle verdi, ma non solo, con tutti anche i loro frutti sopra che state per raccogliere ma non sono ancora pronti. Poi c'è quel campo lì, laggiù in fondo, lo vedete lontano, che lo vedete un po' mogio, un po' giù. Forse questo campo ha bisogno di una rinvigorita, che ne dite? Potrebbe essere. E allora immaginate di essere lì, di avere questa musica in sottofondo, come se ci fosse davvero un'orchestra alle vostre spalle che vi sta suonando questa bella musica coinvolgente, avvolgente anche. E mentre passeggiate tra i vostri campi, la banda da dietro vi segue. Mi segue come se fosse la colonna sonora del vostro film, del film della vostra vita. Ebbene, ci stanno, sembra proprio una musica suonata nel campo, io almeno mi immagino un po' questo, infatti mi stavo quasi facendo i complimenti per la scelta musicale in accordo con il tema trattato oggi, quindi spero che vi siate calati in questa improvvisatissima visualizzazione. E quindi magari quel campo davvero laggiù in fondo che vedevate fra i vostri appezzamenti, che era tutto un po' giù, magari aveva bisogno invece di una bella rotazione. E quindi direi di continuare con la lettura del libricino di Mario Bovolo, La rotazione agraria. Intanto però prima di riniziare, io la musica sotto mi piace tenerla, quindi la facciamo ripartire piano piano. E quindi andiamo avanti nella lettura. Incominciano le spiegazioni. Il terreno non è cosa morta, ma vive, e quando è stanco vuol riposarsi. Una domanda ora ci dobbiamo, scusatemi, allora l'ho detto male, una domanda ora ci dobbiamo rivolgere. Perché un terreno prima sfruttato, poi lasciato in abbandono, si riposa? Dicendo si riposa, vogliamo intendere che la terra non solo lavora, sostenendo e alimentando le piante, ma si arricchisce nuovamente, ossia ridiventa fertile. Una risposta chiara, semplice ed evidente, sappiamo darla tutti quanti. È naturale che se non si coltiva e le piante risaputo che assorbono con le radici delle sostanze nutritive, il terreno non continuerà a impoverirsi. Ma avrà tempo, aggiungiamo, a preparare nuovi elementi fertilizzanti che verranno poi utilizzati dai vegetali. Dovete sapere che, contrariamente a quello che si crede, il terreno non è una cosa morta, formata soltanto da particelle finissime di argilla, da granelli di silice, ovvero sabbia, da calcare in polvere o in frammenti, da residui vegetali e animali, quindi materie organiche, che formano una sostanza nerastra che, dicesi humo, bellino perché adesso lo chiamiamo humus invece, nel terreno vi sono degli esseri viventi, e non parlo dei vermi che portano la terra alla superficie imbrattando talora l'erba, e non intendo riferirmi alle talpe che scavano gallerie e che tagliano radici. E allora, noi non li vediamo, ma anche in un solo grammo di terra vi sono migliaia e migliaia e talvolta molti milioni di esseri infinitamente piccoli che si chiamano microorganismi e che si osservano soltanto con il microscopio, un apparecchio formato da lenti di ingrandimento. I microorganismi compiono delle trasformazioni utilissime. Quando il terreno è soffice, quindi arieggiato, non troppo asciutto, non troppo freddo, l'humo, ossia le sostanze organiche, vengono attaccate dai microorganismi. E così si originano dei composti che si possono sciogliere nell'acqua e che le radici delle piante potranno assorbire. Ricordiamo la trasformazione dell'azoto contenuto nei residui vegetali e animali prima in ammoniaca e poi in nitrato. Il nitrato, aggiungo io, è quello che ci interessa davvero perché è quello che le piante riescono ad assorbire, anche se quello si dilava super velocemente, ma vabbè. E siccome abbiamo accennato all'azoto, è il caso di dire che nel terreno vivono altri microrganismi che sono capaci di nutrirsi a spese dell'azoto, che forma buona parte dell'aria e che con la loro morte lasciano come deposito nel terreno. La rifertilizzazione ottenuta col riposo si spiega pure con il fatto che le particelle del terreno, a parte l'humo, di cui ci siamo ora occupati, sono minerali che contengono sostanze utili per le piante. Sotto l'azione del gelo e del caldo, questi minerali si trasformano lentamente anche essi e si lasciano sciogliere un po' dall'acqua. Si vanno così preparando dei materiali nutritivi che verranno utilizzati dalla coltura che seguirà il riposo. Ma c'è un ma, e serio. Il terreno abbandonato in riposo ridiventa più o meno fertile, ma intanto rimane senza produrre. Ragazzi, aiuto, questo è proprio un problema serio. Gli agricoltori mi dicono che non è certamente il sistema migliore di fare una buona agricoltura. Riposarsi lavorando? Una domanda che esige molte risposte. È giusto che chi è stanco deve riposarsi, però qualche volta ciò è possibile senza rimanere inoperosi, ma facendo semplicemente un altro lavoro. È precisamente il caso del terreno, che stanco di una coltura si riposa con un'altra coltura. Già l'abbiamo accennato nelle pagine precedenti. era stata una semplice constatazione. Ma ora è necessario rispondere a quest'altra domanda. Perché il terreno si riposa coltivando successivamente piante diverse? La risposta non è soltanto interessante spiegazione di questo importantissimo fenomeno, ma le pagine che seguono vogliono essere una guida semplice, pratica e sicura per comprendere i principi sui quali si basa la successione di piante diverse sul medesimo terreno, ossia l'avvicendamento delle colture, e le ragioni che consigliano di praticare la rotazione agraria. Diremo meglio, la buona rotazione agraria. Intanto, non tutte le colture mangiano ugualmente. La legge del minimo, la fame di azoto del grano, i tubercoli radicali delle leguminose. La nutrizione delle piante si svolge attraverso la fissazione del carbonio contenuto nel gas anidride carbonica dell'aria, per opera delle foglie, quello che sappiamo noi essere la fotosintesi, e con l'assorbimento per parte delle radici di sostanze minerali dal terreno. Tra queste hanno grande importanza l'azoto, il fosforo, la potassa, bellino perché ora noi si dice il potassio, e la calce, che si dicono elementi della fertilità. Tutti i vegetali assorbono tutti e quattro questi elementi, ma in proporzioni diverse. Ossia, alcune piante sono avide di azoto, altre richiedono molto fosforo, altre ancora molta potassa. Ecco una delle ragioni principali per cui un terreno si stanca di una data coltura. Il continuato e ripetuto assorbimento in rilevante quantità dello stesso elemento nutritivo finisce per impoverirne il terreno. Allora le piante di quella data famiglia vegetano stentatamente e producono poco, perché non trovano più a loro disposizione gli alimenti necessari in quella determinata e giusta proporzione. È qui il caso di ricordare la legge del minimo, che ogni agricoltore deve ben comprendere e aver sempre presente. Il grano e le piante della stessa famiglia, ovvero le graminacee, assorbono ad esempio molto azoto dal terreno. Col passare degli anni, se non si praticano le dovute concimazioni, la scarsità di azoto determina la scarsità di prodotto. E questo si verifica anche se il terreno sarà ricco di potassa, anche se l'agricoltore avrà concimato il suo grano con perfosfato, ossia avrà fornito al terreno pure il fosforo. Perciò, sia nel campo sia nel prato, le graminacee incominciano a deperire. Il terreno è stanco. In questo caso le piante hanno fame di azoto. Ma un'altra famiglia di piante trova condizioni buone per il suo sviluppo, le leguminose, alle quali abbiamo fatto cenno in precedenza. Non è il caso di ripetere che le leguminose sono capaci di sfamarsi di azoto, anche quando il terreno è povero di questo elemento della fertilità. Il segreto sta in quei piccoli ingrossamenti che si trovano sulle radici, ovvero i tubercoli radicali, nei quali vivono milioni e milioni di microrganismi. Questi fissano l'azoto dell'aria, la quale circola fra gli spazi del terreno, e lo cedono poi alla leguminosa con cui vivono in società, o come si dice, in simbiosi. Aggiungo io questi microrganismi, in particolare sono funghi, che infatti si chiamano funghi azotofissatori proprio per questo motivo, o funghi, sono anche funghi micorrizzici, praticamente micorrizza significa un qualsiasi tipo di simbiosi fra un fungo e una pianta. Ritornando al nostro argomento, è facile capire la ragione per cui un terreno stanco per il grano o per l'avena non lo è per il trifoglio o per l'erba medica. I primi non trovano azoto e muoiono di fame. I secondi ricevono l'azoto dai tubercoli delle loro radici e vivono bene. Boh, non lo so, a me sembra incredibile che già nel 26 sapessero tutta sta roba. Cioè, io l'ho imparata pochissimi anni fa e mi sembrava una cosa rivoluzionaria perché non la sapevo. E questi nel 26 già la sapevano. Cioè, questo fa veramente capire quanto siamo piccolini nel mondo. Andiamo avanti, però. Nei prati avviene spesso di osservare naturalmente, dopo un periodo di predominanza delle graminacee, lo sviluppo delle leguminose, trifoglio specialmente. In seguito poi, siccome il trifoglio lascerà sul terreno dei residui, dalla trasformazione di questa sostanza organica si formeranno composti azotati. E allora nel prato potranno nuovamente trovare buone condizioni le graminacee. La diversa nutrizione delle due famiglie di piante, che crea condizioni contrarie all'una e favorevoli successivamente all'altra, dobbiamo fin d'ora metterla in prima linea per avere una guida nella successione delle colture. Questi tempi non sospetti, siamo viandanti sul filo di anni passeggeri, passeggiamo fra volti distratti, figli di storie minori, di amori itineranti. Sarà per noi il momento di mostrare i denti. Il paradiso non aspetta e non pensare che ritorni. Il rullo dei minuti, il battito dei giorni. In queste terre conosciute arse, seminate dalla sventura, la fortuna passa la mano, le promesse fanno paura. Giochi di forza, giochi di potere, ci sfiorano talvolta. Spettatori stiamo a vedere, gregari in corsa, sempre a dita incrociate, che la memoria resti a vegliare, che il cuore poi sopporti di non dimenticare. Che siamo liberi nel mondo, cittadini senza uno stato, ma il vento odora di cenere e il freddo taglia come un filo spinato. C'è strada da consumare e mare da vedere, dove fiorisce il quadrifoglio e le ali sbattono bianche sulle bandiere. La voce innocente della tradizione, cantiamo al passaggio di ogni stazione, ad ogni emozione ci invita la sera. Cantiamo al passaggio della primavera. Fuori dai campi ora dismessi, torniamo viandanti, vicini alle frontiere di paesi troppo distanti, fra guerre di coltelli per dividere lo stesso pane, dei volti sempre diversi di un nemico uguale, che vive senza ricordi, senza canzoni da ripensare. Sarà per noi il momento di non dimenticare. Siamo liberi nel mondo, ci cittadini senza uno stato, ma il vento odora di cenere e il freddo taglia come un filo spinato. C'è strada da consumare e mare da vedere, dove fiorisce il quadrifoglio e le ali sbattono bianche sulle bandiere. Siamo liberi nel mondo, cittadini senza uno stato, ma il vento odora di cenere e il freddo taglia come un filo spinato. C'è aria da respirare e mare da vedere, dove fiorisce il quadrifoglio e le ali sbattono bianche sulle bandiere. Questo era sempre Riccardo Tesi con Banda Italiana, sempre la formazione che oggi stiamo, per così dire, sponsorizzando, e semplicemente mi piaceva farvela sentire perché mi piace tanto come musica, ovviamente, ma anche perché domani suoneranno a San Salvi a Firenze alle 21:30. C'è da prenotarsi e costa 15 euro, 12 se siete soci COP, soci ARCI. Trovate le informazioni per prenotarvi da internet, non c'è bisogno che ve le dica io. Dunque, quindi stavamo leggendo il libriccino La rotazione agraria e io spero che vi stia piacendo come a me, mi sembra davvero davvero carino, a parte che c'è, cioè, Si impara sempre tanto. E poi mi diverte vedere il fatto che già nel 1926, quando è stato pubblicato questo libro, si sapesse già tutto quello che c'era bisogno di sapere per gestire un campo. No, non tutto magari, ma insomma tanto. E quindi andiamo avanti in questa lettura. Le radici delicate e superficiali del grano e quelle robuste e profonde dell'erba medica. Una miniera di azoto. Siccome abbiamo parlato orora a lungo delle graminacee e delle leguminose, possiamo metterle in confronto sotto un altro aspetto. L'agricoltore non si stanchi se ancora una volta ci occupiamo di queste famiglie di piante. Sono le più importanti sotto tutti gli aspetti. Osserviamo l'apparato radicale del grano o di qualsiasi altra graminacea da campo o da prato, o quello dell'erba medica o di qualunque altra leguminosa di foraggio, quindi come trifoglio, lupinella, ginestrina, sulla o da granella, fava, fagiolo, lenticchia, cece. Le radici del frumento sono sottilissime, delicate, tutte quanti facenti capo in un solo punto, poco sotto il livello del terreno. Queste radicelle, salvo condizioni favorevolissime, hanno uno sviluppo limitato e difficilmente possono penetrare in profondo. L'erba medica ha invece una vigorosa e grossa radice, il fittone, che penetra in profondo e lateralmente presenta radici ramificate. Questa semplice osservazione, che ha messo in rilievo il diverso sviluppo radicale delle graminacee e delle leguminose, ci permette di ricavare un'importante deduzione. Il frumento, con le sue radici superficiali, sfrutta il primo strato del terreno. Questo finirà per stancarsi, ossia per impoverirsi. Coltivando allora erba medica, essa penetrerà con le sue radici in profondo. Il terreno verrà sfruttato in questa parte, mentre lo strato superficiale si riposerà. In seguito, impoverito lo strato profondo, si sfrutterà nuovamente con il frumento lo strato superficiale. Il terreno non si sarà riposato solamente, ma arricchito. L'erba medica, assorbendo sostanze nutritive con le sue radici lunghe ed esploranti il sottosuolo, avrà fornito per 2 o più anni un abbondante e ottimo foraggio non solo, ma sulla superficie saranno rimasti volta a volta delle foglioline, dei fiori, degli steli e nel terreno resteranno le grosse e numerose radici. Queste hanno perforato in ogni senso la massa terrosa e rimangono, dopo una buona aratura e con la loro morte, a formare una grande quantità di residui di sostanza organica. Con la trasformazione dei residui si formerà l'umo, ricchissimo di azoto perché proveniente da una leguminosa. La quantità di azoto che viene fissata nel modo ora detto è tutt'altro che indifferente. Anche una semplice coltura di trifoglio che rimane nel terreno, ad esempio, dalla primavera di questo anno all'autunno dell'anno venturo, lascia in un ettaro 25 kg di azoto e perfino il doppio. Sarei curiosissima di sapere come l'hanno calcolato, proprio non me lo so immaginare. Cioè non so nemmeno come si calcolerebbe oggi, ma chissà se il metodo era diverso prima e adesso. L'erba medica può benissimo, in 2 anni di vegetazione, arricchire il terreno di 100 kg di azoto per ettaro e quando il medicaio ha lunga durata, la quantità di azoto accumulato può essere doppia o anche tripla. Guerra alle cattive erbe, le armi, una zappa tra le file delle piante sarchiate e una falce per i prati artificiali. Il terreno non è soltanto... Scusate, vorrei anticipare il fatto che fra tutti i capitoletti che abbiamo letto questo è di gran lunga il più lungo, quindi è molto divertente questo fatto. Devo dire la verità, ancora non l'ho letto, lo leggo insieme a voi. Però è interessante, cioè il primo capitolo che parla delle erbacce, cosiddette erbacce, è il più lungo. Molto bene, continuiamo. Il terreno non è soltanto riservato alle piante che l'agricoltore coltiva, ma destinato per natura alla vegetazione di una infinità di erbe che si sviluppano spontaneamente e che diventano terribili nemiche delle colture. Le chiamiamo infatti cattive erbe, malerbe, erbe infestanti, erbacce aggiungo io che è ancora peggio di tutti questi termini che ha dato. Il danno che esse apportano è purtroppo ben noto e in certe annate il loro sviluppo è impressionante addirittura con grave scapito del prodotto dei campi. Le cattive erbe non rivestono solamente i terreni abbandonati, ma anche seminati. Anzi, trovando il terreno in buone condizioni, vegetano rigogliosamente e talvolta prendono il sopravvento sulle piante coltivate. Le cagioni di danno sono facili a mettersi in rilievo. Intanto rubano una parte del nutrimento, assorbendo con le loro potenti radici le sostanze fertilizzanti che erano destinate alle pianticine coltivate. E con il loro sviluppo, spesso rapido, le ombreggiano, le soffocano. In un secondo tempo, specialmente quando la coltura deve attraversare un periodo di siccità, il danno, meno evidente, può essere notevolissimo. Le erbe infestanti non solo assorbono materiali nutritivi, ma anche acqua, molta acqua. L'acqua non è soltanto costituente delle piante, ma è anche veicolo dei composti minerali assorbiti dal terreno. Ad esempio, se noi raccogliamo 100 kg di erbe infestanti e le facciamo seccare, queste si riducono a soli 30 grammi. Si comprende che quindi i 70 grammi erano formati da acqua, evaporata poi durante l'essiccamento. Ma queste cattive erbe non hanno soltanto impoverito il terreno di 70 grammi di acqua. Per formare i 30 grammi di sostanza secca, esse hanno dovuto assorbire dal terreno niente meno che 10 tonnellate di acqua. E non solo dobbiamo stupirci e non dobbiamo trovare esagerata questa cifra. Pensiamo al compito importantissimo dell'acqua, la quale, sciolte le sostanze nutritive in piccolissime dosi dal terreno, penetra nelle radici, sale fino alle foglie, dove le sostanze vengono elaborate. Ma l'acqua, giunta alle foglie, non ritorna al terreno, ma invece evapora nell'aria, per il fenomeno della traspirazione. Così sarà possibile a nuova acqua, con altre sostanze nutritive, di risalire alle foglie. Cosicché è un continuo passaggio di acqua nella pianta, un continuo assorbire da parte delle radici, una continua evaporazione da parte delle foglie. E occorrono infatti circa 300 grammi di acqua per formare un chilo di sostanza secca vegetale. Anche su ciò deve riflettere l'agricoltore, specialmente delle zone che soffrono facilmente la siccità. Dunque, guerra alle cattive erbe, le quali contendono lo spazio alle colture, rubano il nutrimento e impoveriscono di acqua il terreno. È proprio incazzato nero con queste male erbe, via! Fra le piante coltivate, alcune soffrono più facilmente i danni della cattiva compagnia delle erbe spontanee. Il frumento, ad esempio, ne è sovente invaso. Altre coltivazioni, invece, sono difese dall'agricoltore e si difendono naturalmente. Un gruppo di piante, che prendono il nome di sarchiate, si dispongono su file e siccome fra queste le cattive erbe sviluppano con facilità, si procede poi a zappettature, che si dicono sarchiature. Con la sarchiatura si estirpa la vegetazione naturale e si raggiungono, come sappiamo, altri vantaggi, quali lo sminuzzamento della crosta superficiale. La terra, in queste condizioni, si mantiene più fresca in profondo, perché l'acqua che sale attraverso gli spazi tra particella e particella trova i canaletti capillari interrotti e quindi non evapora, ma resta a contatto con le radici. Fra le piante sarchiate ricordiamo il grano turco, la patata, la fava, il tabacco, la barbabietola, eccetera. Altre coltivazioni si difendono, come abbiamo sopra accennato, naturalmente dalle erbe infestanti. Sono di solito a rapido sviluppo e rivestono poi totalmente la superficie del terreno, ombreggiandolo completamente e soffocando le erbe infestanti. Ad esempio, la canapa e i prati artificiali di erba medica, di trifoglio o anche altre. E non dimentichiamo che tanto le piante sarchiate quanto queste ultime non solo si difendono dalle cattive erbe, ma ne liberano il terreno, lo puliscono, diremmo così, anche a beneficio della coltivazione che le seguirà. Infatti, con la zappettatura tra le file, si troncano le pianticine inutili e nei prati artificiali, con le diverse falciature, si tagliano anche le erbe infestanti, impedendo loro di maturare i semi e quindi di propagarsi. Thank you. questi che ci stanno accompagnando nelle letture di oggi, lunedì 14 agosto, in questa 17ª puntata di Nervature. Sono i Go Go Penguin, li ho conosciuti proprio oggi, devo essere sincera, sono un gruppo britannico. Andiamo velocemente avanti per cercare di concludere questa puntata. Un sudore velenoso delle radici? Chi lo sa? Ma qualcosa si osserva in pratica. L'uomo, che ha lungamente e faticosamente lavorato, si stanca e qualche volta suda. Io lo so bene, non so se voi lo sapete altrettanto bene come me. Ecco, direi che in questa stagione lo sappiamo tutti abbastanza bene. Però. Quindi, il sudore non è altro che l'uscita dai pori, piccolissimi forellini della nostra pelle, di acqua, la quale contiene i prodotti di rifiuto dell'organismo, che così si eliminano e che sarebbero dannosi alla salute. Abbiamo detto che le piante traspirano, ossia emettono acqua allo stato di vapore dalle foglie, ma non è questo il paragone che si vuole prospettare. Anche le piante pare che sudino con le loro radici, quindi non con le foglie ma con le radici. Non è un vero e proprio sudore, ma la secrezione di sostanze inutili, dannose alla loro vita. Queste sostanze di rifiuto, accumulandosi nel terreno, agirebbero come veleni. Per noi basti sapere, come la pratica insegna, che certe piante, le leguminose in modo speciale, ritornano malvolentieri sullo stesso terreno, a breve distanza da una precedente loro coltivazione. E notiamo, l'esperienza ha dimostrato che le sostanze di rifiuto che forse emettono le radici di una pianta sono dannose alla pianta stessa, ma non velenose per un'altra pianta. Anche queste nozioni, che sembrano a tutta prima teoria soltanto, teniamole presenti. Ci serviranno nella pratica della rotazione agraria. Salviamo le colture dalle malattie e combattiamo gli insetti danneggiatori con la rotazione. I vegetali, oltre alle erbe infestanti, contano innumerevoli nemici, malattie e insetti specialmente. I danni, più o meno gravi, talvolta gravissimi, non mancano mai e ben difficile è per l'agricoltore la lotta contro tanti malanni e tanti nemici delle colture. I germi delle malattie e le uova degli insetti rimangono di solito nel terreno e coltivando nuovamente la pianta che sono capaci di attaccare, tornano a svilupparsi, arrecandovi talvolta maggiori danni. E si noti ancora che occorrono a volte diversi anni perché i germi perdano la loro vitalità o prima che il terreno sia liberato da insetti dannosi o una data pianta. Quindi, generalmente, è bene che una coltura ritorni dopo diversi anni sul medesimo campo, per dar tempo che i suoi nemici, i quali non trovano con le altre piante l'ambiente favorevole al loro sviluppo, finiscano per scomparire. Thank you. avviciniamo a quest'ultimo pezzettino di letture della puntata odierna di lunedì 14 agosto. Sono infatti le 20:28 e sta per scadere il mio tempo a disposizione. Quindi non posso che concludere queste letture del libro La rotazione agraria di Mario Bovolo del 1926 con questo capitoletto che si intitola così: una sosta per ripetere con poche parole quello che si è letto finora in molte pagine. Ed ora si potrebbe senz'altro passare alla parte pratica del nostro argomento. Le pagine precedenti erano però indispensabili e l'agricoltore, leggendole attentamente, ha trovato esposte nozioni che già aveva appreso fra i campi ed imparato tanti perché utili e interessanti. Ma sarà bene, prima di procedere oltre, di riassumere in poche parole quanto è stato finora esposto, perché importa essenzialmente aver compreso e ricordare le pagine precedenti. Un terreno si stanca ripetendo la medesima coltura, si riposa lasciato senza produrre oppure coltivato successivamente con piante diverse. Con la medesima pianta ripetuta sul medesimo campo si impoverisce il terreno dell'elemento fertilizzante assorbito da quella in maggior quantità. Si sfrutta sempre lo stesso strato. Le secrezioni delle radici finiscono per avvelenare il terreno. Si facilita lo sviluppo di erbe infestanti. Si favorisce la moltiplicazione di malattie e di insetti nocivi alla stessa coltivazione. Cambiando la coltura sul medesimo campo, cioè avvicendando le piante, si sfrutta meglio il terreno perché i diversi vegetali hanno esigenze diverse e quindi mano a mano troveranno gli elementi fertilizzanti loro necessari. Il terreno sfruttato in azoto si arricchisce coltivando una leguminosa. Le radici delle piante che si succedono, avendo uno sviluppo differente, penetrano a differente profondità e ciascuna trova nutrimento successivamente nei vari strati. Il terreno invaso dalle erbe infestanti si pulisce con la coltivazione di una sarchiata, che richiede zappetatura tra le file. Si evita l'azione nociva delle sostanze velenose emesse dalle radici, che non sono dannose alle altre piante. Si impedisce un nuovo sviluppo di malattie e di insetti danneggiatori di una pianta, perché sia le une che gli altri non attaccano vegetali di questa famiglia diversa. L'ideale, si era scritto, ed ora se ne comprendono bene le ragioni, sarebbe di poter cambiare le piante coltivate continuamente, avvicendamento delle colture. Ma i piuoli di una scala sono troppi e quindi dobbiamo limitarci ai raggi di una ruota, ovvero la rotazione agraria. Eccoci qua, siamo arrivati alla fine di questa 17ª puntata di Nervature. Vi ho letto un po' di capitoletti del libro La rotazione agraria di Mario Bovolo, ed era un libriccino che ho trovato giusto ieri l'altro forse era, in un mercatino in un bel paesino di montagna. Quindi c'era questo banchetto di roba usata, un po' di antiquaria proprio. E quindi ho avuto questo nuovo impulso per strutturare la puntata di oggi. Allora, prima di salutarsi, mi piacerebbe ricordarvi di nuovo un appuntamento che vi ho già preannunciato all'inizio della puntata, ovvero se siete interessati a partecipare alle attività, alle azioni del comitato No Comando NATO né a Firenze né altrove, potrete andare a trovarli, a conoscerli o comunque appunto a partecipare, a scambiare idee e informazioni con loro lunedì 4 settembre alle 21, quindi alle 9 di sera, al Parco dell'Anconella. Quindi sarà un'assemblea del comitato per organizzare le prossime iniziative di lotta. Mi raccomando, siamo numerosi, mi raccomando. È una lotta importante questa. Dunque, quindi adesso mi tocca salutarvi a brevissimo. E mi avete ascoltato a me, Addu, a questa appunto 17ª puntata di Nervature, e mi avete ascoltato su Radio Wombat, quindi l'unica e meravigliosa radio libera autogestita, autofinanziata anche, di Firenze e di tutta la provincia di Firenze. Mi raccomando, sosteneteci, continuate ad ascoltarci, ascoltare me ma anche tutte le altre trasmissioni, nonostante adesso nel periodo estivo ci sia un po' di vacanza meritata generale, ma comunque trovate sempre in continuazione Bobina con belle canzoni. E quindi la compagna automatica cosiddetta, che vi può comunque sempre accompagnare anche in questo periodo di vacanza. E comunque ritorneremo numerosissimo a settembre, quindi mi raccomando, rimanete connessi. E quindi eccomi qua a salutarvi, e vi vorrei però salutare con un ultimo brano oggi in particolare, oltre a questo, a mio parere, bel tappetino, quindi questo sottofondo musicale che erano i Go Go Penguin, vi ho anche un po' fatto conoscere, o forse fatto risentire se già li conoscevate, la formazione di Riccardo Tesi con Banda Italiana, i quali, ripeto per l'ennesima volta, che suoneranno domani a San Salvi, quindi a Firenze, alle 9:30. E se vi sono piaciuti, se vi piacciono, se li cercate da tanto, dovete, mi raccomando, prenotare il concerto, costa più o meno una quindicina d'euro. E quindi vi farei sentire quest'ultimo pezzo, che è Te Vac. Tra l'altro, scusate, mi ero scordata di dirvi che questi brani loro che vi ho fatto sentire oggi li ho presi un po' da tutti gli album che hanno fatto, quindi a partire dal primo, proprio dai primordi, diciamo, di questa formazione, fino anche al più recente, che è veramente di pochissimi anni fa, del, mamma mia, quando era, 2018, una cosa del genere, forse anche dopo addirittura, non mi ricordo. Quindi vi faccio sentire quest'ultimo brano loro, che è Te Vac, non so bene come si pronunci ma non importa. Questi sono Riccardo Tesi e Banda Italiana. Con me e con Addu ci risentite, io e le mie tante personalità, tra una settimana precisa, quindi lunedì prossimo, sempre alle 19, sempre su Radio Wombat, mi raccomando. Quindi buon ascolto con questa Te Vac e buona serata a tutti. Thank you. Thank you.